Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Piccoli ma già così sensibili, si potrebbero commentare così i risultati di uno studio dell'Università di Milano Bicocca che ha dimostrato come i bambini di soli 3 mesi possono immagazzinare informazioni subliminali che influenzano le loro emozioni e la loro percezione degli oggetti. A Obiettivo Salute la dottoressa Elena Nava, ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca, che ha partecipato allo studio. Sì, dallo studio quello che abbiamo dall'osservazione è che si deduce che i bambini già a partire dai primi mesi di vita riescono ad associare le emozioni inconsce degli oggetti neutri, alterando la successiva sensazione e percezione. E inoltre questa associazione inconscia abbiamo visto che si è manifestata solo quando i volti erano come dei tinti di una certa espressione facciale, ma non semplicemente quando erano neutri, suggerendo che è proprio l'emozione che modula quindi la percezione e non la semplice esposizione di un volto. Questo studio ha una serie di implicazioni. Da un punto di vista teorico, il fatto che i bambini riescano a compiere queste associazioni suggerisce che fin dai primissimi mesi di vita le emozioni giocano un ruolo importantissimo nell'apprendimento del bambino e che il cervello quindi tende in qualche modo a creare, proprio a tingere sensazioni gli oggetti con cui viene a contatto. Questo significa anche che queste associazioni potrebbero fin da piccoli, come dire, guidare delle preferenze, scelte che non sono però governabili razionalmente. A sua volta quindi, questo suggerirebbe che gli ambienti anche, come dire, in cui crescono i bambini favoriti dall'esposizione anche da tutta una serie di eventi, come dire, di esperienze positive. La deprivazione di androgeni, terapia usata sui pazienti in cura per il tumore alla prostata, potrebbe avere un effetto protettivo nei confronti dell'infezione Covid-19, è quanto suggerisce uno studio pubblicato su Annals of Oncology da un team di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Università della Svizzera Italiana. A Obiettivo Salute il commento del professor Andrea Limonti, principale investigator dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova e ordinario di oncologia all'Università della Svizzera Italiana, autore dello studio. Siamo andati a vedere una popolazione molto ampia di pazienti infettati dal virus nella regione Veneto e abbiamo visto 2 cose. Primo, che se guardiamo ai pazienti maschi affetti da cancro, questi hanno un rischio molto maggiore rispetto alla popolazione generale di sviluppare una sintomatologia, quindi una sindrome molto più grave quando colpiti dall'infezione di SARS. Però c'è un'eccezione: quei pazienti che erano affetti da carcinoma della prostata e che facevano una terapia che li deprivava dagli androgeni, quindi abbassava i livelli di androgeni, erano protetti dall'infezione virale e soprattutto non sviluppavano una sintomatologia severa. Questo dato dimostra, è una prova che dimostra che questa teoria degli androgeni come meccanismo che favorisce l'infezione dal SARS-CoV ha un fondamento. Grazie al professor Limonti, per oggi è tutto, vi aspetto come sempre sulla pagina di Obiettivo Salute per i nostri incontri con i nostri esperti. Buona giornata da Nicoletta.